YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. La terza ora del sabato del villaggio, meno male che arriva Daniele perché sto perdendo un po' la voce. Daniele, dobbiamo arrivare fino alla fine, fino alle 6, ce la facciamo? Oretta qui. Ma comunque, allora, sai che stavi ballando? Perché eri felice perché la coppia è stata ricomposta dopo che tu eri a Genova, io a Trieste. Sì, è vero, ma non farlo mai più, non farlo mai più. Sì. No, allora i nostri account sono sempre gli stessi, et Marta Cagnola, et di Bellasio. L'hashtag del sabato del villaggio, diciamo prima quello, è hashtag ISDV, ormai l'ho imparato, hashtag cancelletto, Radio cancelletto, YouTube, si può dire, con parole mie lo dico. Allora, stavo già ballando pensando al primo file che voglio farti sentire. Andiamo a comandare, finalmente, un inedito. Basta, andiamo a comandare, basta, adesso c'è Alvaro un nuovo. Soler. C'è uno nuovo. Non lo so. Beh, allora facciamo che te lo faccio sentire. Sentiamo. I have a pen. I have an apple, apple pen. I have a pen. I have pineapple, pineapple pen. Apple pen, pineapple pen. Pen pineapple, apple pen. Non lo conosci? No. Adesso noi non usciamo di qui. Voi... No, aspetta. Questa è la chiudete radio. Tutte le porte. Sì. Non usciamo di sì. più di qui finché non mi spieghi però esattamente perché sta ciofeca è diventata la hit mondiale. Adesso tu me lo devi spiegare. Intanto lui l'avete sicuramente visto in rete, lo dico agli ascoltatori. Ma perché l'avete visto? Siccome l'avete sicuramente visto, lui perché i milioni l'avete visto? Piccotaro, fammelo dire bene, pen, pineapple, apple pen non ha nessun senso ed è per questo che funziona. Perché non ha senso? Perché non ha senso, perché lui fa ridere nel balletto, c'è la coreografia, perché lui prende prima la penna, poi la mela e fa pen. No, allora apple, io invito veramente apple. I pochi che non pen, l'hanno ancora pineapple. Visto, andate pen, a vedere, dovreste vedere la faccia di Marta la prossima volta. La so tutta! No, dovete spiegarci, ma è stato uno dei personaggi della settimana. Sai l'altro personaggio che e lui è giapponese. Giapponese. Piccotaro. L'altro personaggio è un attore che ha come sì, sai di teatro, un farà Shakespeare nel tempo libero, no? È ovvio. Sì, Apple, pineapple. Ma ci ha guadagnato, ci guadagni, sì, perché ma ci guadagnerà sicuro, sicuramente, ci guadagnerà farà un LP. No, l'altro personaggio è italiano. Sì, italiano. L'altro personaggio è italiano, Angelo Pintus, è un comico che è abituato a far ridere. Ma questa volta ha fatto commuovere perché dal vivo ha fatto questo. Commuoviamoci. Continua con te. Questa è una serata meravigliosa perché lo è, per tanti motivi. Perché ci sono i miei amici, tanti, e perché c'è il cielo. E quando c'è il cielo è un po' diverso, perché tutte le persone che tu hai perso nella tua vita ti possono guardare finalmente. Ed è davanti a loro, ed è davanti a voi, questa sera, che volevo chiedere una cosa a questa ragazza meravigliosa. Volevo chiederti se mi vuoi sposare. Ha detto di sì Michela e quindi Angelo e Michela si sposano. Sì, le ha fatto una proposta di matrimonio all'Arena di Verona durante lo spettacolo. Beh, vabbè. Capito? Poteva mai dire di no, peraltro. No, beh sicuramente, però, capito? Dopo le Olimpiadi, che bravo. Eh sì, e devo dire che effettivamente tu ti è uno sei dei molto video. Commossa. Beh, ma sai, poi essendo lui un comico, non ti aspetti che. E è molto bello perché nelle immagini, perché poi questo spettacolo è andato in onda anche su Italia 1, è uno spettacolo che è stato molto visto. Le immagini mostrano tutto il pubblico che si commuove perché era veramente inatteso. Bellissimo. Molto carino, molto carino. E altri matrimoni, gente sposata da un po', sì. Mogli che vanno in difesa dei loro mariti. Non lo so, perché non c'è nella scaletta Ilari, matrimonio. Ilari! Ah, no, c'è nella scaletta. Matrimonio, a proposito, Ilari. Sì, Ilari, Ilari. Tanti auguri, Francesco Totti. Totti. Guarda, capitano, 40 anni non sentirli. Ti ricordi che tantissimi anni fa, quando noi eravamo bambini, c'era Dino Zoff che faceva la pubblicità dell'olio? Sì. E 40 anni e non sentirli. 40 anni e non sentirli era una cosa come dire... Cioè, 40 anni e cioè, sei anziano. Lo possiamo dire perché eppure, entrambi ne abbiamo la metà. Esatto. Eppure. Francesco Totti. Vabbè. Ilari l'ha presa bene, ha detto delle cose gentili sul suo allenatore. Ha concesso un'intervista alla Gazzetta nella quale ha avuto tante buone parole. Per tutti alla Roma. Il suo allenatore Spalletti, che l'ha presa benissimo anche infatti lui. Infatti ha fatto il regalo a Francesco e il regalo a Ilari. Ma sentiamo qual è stato il regalo a Francesco. Auguri Francesco, sinceri dal profondo del cuore. Io ti ho comprato la DeLorean, la macchina del tempo, così potrai scegliere quello che fare, se tornare indietro, se andare nel futuro, tutto quello che tu desideri per me. Vabbè, invece a Ilari regalava Piccolo Uomo. Sì, della canzone vabbè. È stato bravo, tirato fuori da dietro, sì, c'era la sorpresa. Andate a vedere un bel video. Ma vorrei festeggiare il compleanno di Francesco Totti, concludere con i festeggiamenti con un brano che ci ha suggerito il nostro Andrea Roccabella in regia. Quando diventi seria c'hai Cali Lasso. No, ce l'ha suggerito Andrea Roccabella in regia, perché mi ha detto, guarda, sei quasi come Pen Pineapple. Allora, sentite qua, lui è Bello Figo. Oh, oh baby, Francesco Totti, Francesco Totti, Francesco Totti, Francesco Totti, Francesco Totti. Cambia, non è sempre così. Aspetta che adesso parte. Francesco Totti, bello figo, io sembro Francesco. Allora, lui è Bello Figo. Dove l'avete trovato? No, allora, Bello Figo è un fenomeno del web. È un fenomeno. È un ragazzo giovanissimo, ha 21 anni, è molto giovane, vive a Parma, ma è originario del Ghana. Ed è simpaticissimo perché fa questi pezzi in cui canta in maniera... struggente. Sì, esatto. Direi... E non si capisce quanto si prenda sul serio e quanto no, ma il pubblico, soprattutto i ragazzini, impazziscono per lui. E lui in questo video, ovviamente è originario del Ghana, quindi non assomiglia proprio tantissimo a Francesco Totti. No, però è vestito come Francesco Totti e lui dice che assomiglia a Francesco Totti e un po' dice mi prendono per Francesco Totti. Guarda che questo diventa viralissimo. Mi ricorda nell'ultima puntata di X Factor che ho visto l'altro giorno, e c'era un ospite che cantava, che cantava così. Sì. Allora, un momento di pausa, poi ci ritroviamo insieme. Durante la pausa io canterò solo Francesco. Io Pineapple, Apple Pen e Pineapple. A tra traffico. Poco. JP Morgan Asset Management vi presenta. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30, su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Radio Tube. E dopo questo inizio divertente e romantico, caro Daniele... Come me. È modesto. Come me. Modesto mi risulta persino divertente, difficile. Persino a me risulta come difficile. Me è bellissimo. Modesto, vabbè, vediamo, ci lavoriamo. 1-0 per te. Dunque, noi quest'anno non abbiamo ancora parlato di libri. No. Perché noi ogni tanto chiediamo scusa ad Alessandra. Alessandra con la quale abbiamo parlato, sì. Ogni si tanto i suoi noi... consigli. Se nei libri c'è un sottofondo digitale, noi così un po' ci avventuriamo. Pensavo un sottofondo alcolico. avere il titolo. Ma sì, guarda che il titolo non doveva essere quello. Vabbè, dai, dai, allora raccontami un po', Daniele. Allora, abbiamo dunque la voglia e il desiderio di parlare con Marco Ferrante, che abbiamo al telefono e che di lavoro fa la televisione, perché è il vice direttore della 7. Ciao Marco. Buongiorno, ciao. Allora diciamolo questo, sì, titolo. Allora, il titolo del romanzo Giunti è Gin Tonic a occhi chiusi. Mm-hmm, mi piace un sacco questo titolo. Lo so, per il gin tonic. Tantissimo. Però in realtà io, siccome sono un po' amico di Marco, anzi tanto, sì, so che il titolo deve essere un altro, Marco. No, si può svelare. C'è stata una lunga fase preparatoria. All'inizio, quando questa cosa qui era nata per essere messa su internet, poi è diventata un'altra cosa, questo, vedi, titolo bellissimo, l'ha scelto Antonio Franchini. Però c'è stata una fase iniziale in cui era una piccola bozza, e l'idea era che si chiamasse Fisso su Google, perché uno, sì, perché uno dei protagonisti, alle prese con una sua tragedia personale, metà privata, però con un riflesso pubblico, temeva che questa storia qui diventasse una storia di dominio pubblico, e quindi in qualunque momento libero si metteva su Google a cercare di capire se fosse stato pizzicato da qualche sito, da qualche e ogni tanto cosa che non si fa mai nella realtà, cosa che non si fa mai. Peraltro nel libro è bellissimo perché c'è tanta Roma, mm-hmm, tanti amori un po' così che vanno che vengono, insomma, mm-hmm, non troppo adulti e stabili, però tanti quarantenni più o meno, mm-hmm, tanti affetti strani particolari, tanta politica, l'ho già detto, quindi sembra un romanzo. È la realtà, esatto, è la realtà, è il romanzo, Marco, dell'attualità. Cioè, adesso non voglio chiedere se è autobiografico o se hai rubato le storie di qualche amico, collega, però certo che sapore di realtà c'è in questo gin tonic. Sì, no, no, c'è un sapore di realtà, però parola d'onore, non c'è niente di autobiografico. È no, anche perché lo sai, vero, che la tentazione è quella di dire, ah, ma chissà. No, rassicuriamo i familiari. No, invece no. Purtroppo, è da questo punto di vista, anticipo, è una delusione. Non cercate, no, facce, nomi, eccetera, perché non ce ne sono. Di questo libro fanno tutti dei lavori più o meno pubblici. Uno è un deputato alla prima legislatura, di cui non si sa però a quale partito appartenga, perché tanto è uguale. E poi c'è un giornalista conformista, di quelli che ne conosciamo tantissimi, e poi c'è un altro invece che è un commercialista molto, molto liquido, guadagna molto bene perché guadagna più di 1 milione l'anno, qui che fa il consulente per grandi imprese, e quindi ognuno dei tre ha questa dimensione pubblica che è lo sfondo su cui poi si muovono le trame delle loro vite. Posto che secondo me sembra... Sembra già pronto per un film. Sì, sai, è la stessa. Ma vedi che io pronto. E te siamo fatti proprio per condurre la stessa trasmissione. Ho capito quello che state dicendo. No, ti ricordi la prima cosa che ti ho detto quando l'ho letto? È sembra pronto per una serie TV. Invece, sì, Marta ha appena detto sembra pronto per un film. Che dici, Marco? Non lo so, possiamo fare. Tieni possiamo acceso fare il telefono. Magari c'è qualche produttore all'ascolto, qualche sceneggiatore. Secondo me il plot potrebbe essere giusto. Hai detto che era nato per andare su internet. Questa cosa mi incuriosisce molto. All'inizio avevo pensato, era un anno di transizione professionale. Allora avevo pensato di fare una di quelle cose tipo un blog, quelle cose che con la buona volontà che poi passa. E quindi avevo cominciato a scrivere una storiella che era fatta di piccoli paragrafi da meno di 2000 battute l'uno, erano 1800 battute, come una cartella di stampa, e questa era l'idea originaria. E poi invece quando l'ho fatto vedere a Marco Vigevani, lui mi ha detto no, ma devi trasformare in un romanzo. Marco Vigevani è un bravissimo, grandissimo agente letterario, eccetera eccetera, e mi ha consigliato di trasformarlo in un romanzo. In questo romanzo su, come dicevi tu, lo spappolamento emotivo, politico, sociale, anche un po' generazionale, il colpevole è l'individuo che non sa crescere o la società che si disgrega? No, secondo me la questione ovviamente è sempre un po' individuale. Dopodiché è ovvio che la società, essendo una somma di individui, risente della somma delle pigrizie, no? e a quel punto diventa a sua volta un soggetto pigro. Nel caso di Roma la questione è particolarmente complessa. Roma di suo non è una città facile, è una città molto grande, è una città caotica, è una città per sua natura molto stratificata, dunque per sua natura difficilmente governabile, certo. La fase in cui ci troviamo acuisce i difetti della città, perché poi è una di quelle città che un po' di guida necessita. Ricordiamoci che Rutelli è stato un bravissimo sindaco e lo ha fatto in una situazione in cui forse la società era altrettanto traumatizzata da quella cosa lì che era stata Tangentopoli. Cioè le condizioni in cui Rutelli si trova a fare il sindaco di Roma erano condizioni, come possiamo dire, più complicate oggettivamente di quelle in cui si è trovata ad ascendere alla guida della città la Virginia Raggi. Io posso fare solo un commento, sì. Marco, posso farlo? Prego. Allora il mio unico commento sarà: è bellissimo. Ciao, è bellissimo essere qui, è stato bellissimo uscire, sentirvi, vedere, ringraziarvi. È bellissimo. È bello vedere che siamo uniti. Mi piace. È bella. È bello, dicevo, è bello perché... È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È un videomontaggio di Pablo Rojas, sì. Collega della Rai, autore televisivo. Quindi Virginia Raggi sul palco di Palermo è bellissimo, bellissimo. Parla, l'abbia detto 14 volte in 14 minuti. Con Non ci resta che piangere. Amanda, sì, Sandra, sì, è bellissima, sì. Però. È bellissimo. Roma non se la passa benissimo, però. No, assolutamente. Se la passa malissimo, ma se la passa malissimo da qualche anno. Cioè, ricordatevi che la percezione che la città di se stessa comincia alcuni anni fa, ma non tantissimi, quando cominciano i reportage. Credo che il primo fosse stato un reportage di Roncone sul Corriere, che raccontò una cosa che noi avevamo sotto gli occhi di tutti, cioè la distruzione totale, la sporcizia totale della città. Ma che è una sporcizia, come posso dire, proprio minuta, spicciola, non so come dire, fatta di carte per strada, è fatta di bottiglie lasciate dai turisti sui davanzali delle finestre cinquecentesche, cioè è questo tipo di cosa. Io invito tutti, per capire qual è il segno veramente della decadenza totale della città, fare un giro su Ponte Sisto. Adesso Daniele conosce bene Ponte Sisto perché nei nostri anni comuni del Foglio lo attraversavamo. Sì. Andare in redazione. Ponte Sisto, che è un simbolo della seconda Roma, della Roma del cinquecentesca, dei grandi papi cinquecenteschi, è un luogo di completo degrado, popolato da ambulanti e da suonatori di pseudo musica rock con delle casse mobili, e dove non c'è mai un vigile. Ed è, come possiamo dire, è un plastico segno del degrado, cioè dovrebbe essere una di quelle cose che dovrebbe essere, come possiamo dire, un vero simbolo della città, no? Sì. Anche perché è un monumento peraltro molto ben tenuto, con una sua storia, con un suo significato molto più profondo di quanto poi non venga restituito dalla sua apparenza. Però ecco, io invito tutti a fare un salto a Ponte Sisto. Naturalmente inviterei soprattutto gli amministratori, il sindaco, certo, gli assessori competenti a farlo, il comandante dei vigili urbani, perché no? Sono d'accordo, giustissimo. Sono stata a Roma questa settimana, quindi amandola tanto soffro sempre un po'. Gin tonic a occhi chiusi. Giunti. Marco Ferrante, che grazie, abbiamo avuto. Grazie per essere grazie. Stato con noi, Marco. Leggetelo, grazie, è bellissimo. Ciao, grazie, Marco. Grazie, a presto, grazie mille. Grazie, grazie. Noi ci ritroviamo tra poco. Ci facciamo un gin tonic e torniamo. Quest'ora, un po' presto, va bene. Io poi non lo digeri, il gin è indigeribile. Anche per me il gin è un po' presto, ne preferisco siamo altro. Siamo proprio sempre sulla stessa linea. Mamma mia, incredibile. A tra pochissimo. Sono Giorgia Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Giorgia Telesforo. Sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Radio Tube. E ritorniamo insieme dopo una brevissima pausa. Abbiamo parlato di Roma, abbiamo parlato di gin tonic e nella pausa ci siamo detti che no, noi il gin tonic, cioè ci piace il titolo ma il gin tonic non lo beviamo. No, assolutamente, io sono per i classici. Beh, perché tu sei un piemontese, quindi vuoi tranquille. Ma sai che adesso ti rimaniamo in Piemonte? Rimaniamo in Piemonte? Che bella, sì, rimaniamo in zona Piemonte. Allora, c'è una trasmissione che ha fatto, sai come si dice? Ha fatto il botto. Yamolla. Sì, è andata benissimo. Torna, ha fatto veramente un grandissimo successo d'ascolti. Secondo me lui è uno dei personaggi del momento. Con la discrezione che lo caratterizza, sta veramente conquistando tutto. E io vorrei introdurlo così. Buonasera a tutti, eccoci qui. Benvenuti dagli studios Teatro 7 nel cuore di Roma per vivere insieme a voi una serata di grandi emozioni. Domani ritorna all'arena, ma questa sera facciamo la festa e diciamo tutti insieme grazie a Mogol. Mogol è l'uomo che ha saputo dare, con il suo talento, con la sua qualità di artista, voce alle nostre emozioni. Rivivremo l'avventura che ha fatto di lui, insomma, un connubio perfetto, è quasi un cognome solo, Mogol Battisti. Avremo dei documenti inediti bellissimi. E poi racconteremo il rapporto che Mogol ha avuto e ha ancora oggi con grandi nomi della musica italiana e internazionale. Allora, ha fatto la prima puntata sabato scorso, un ascolto record 23,57%. Viva Mogol, torna questa sera e noi lo festeggiamo già in anticipo per gli ascolti della scorsa settimana. Non vogliamo dire niente di questa, perché noi siamo scaramantici. No, anche perché manca poco. Manca poco. Scusate, ho perso un po' la voce. Buongiorno, eccoci. A Massimo Giletti, ciao Massimo. Ciao. Ciao a tutti. Vabbè, eccoci. Hai fatto l'impresa la scorsa settimana, perché insomma avevi contro, ha vinto la serata, avevi vinto contro delle corazzate, diciamo così, senza far nomi. No, ma al di là, io sono uno che ormai da tanti anni ha corazzate contro tutte le domeniche. È vero. Per cui più che una portaerea, un sommergibile, non so, sono diventato un esperto di battaglia navale, però. Quello che conta è che noi abbiamo prodotto all'interno dell'azienda con grandi risparmi. Questa è una cosa che pochi raccontano, però secondo me da un punto di vista industriale è la cosa più importante. Cioè noi siamo in grado di produrre all'interno dell'azienda risparmiando e vincendo. Questo credo che sia una cosa seria che interessa a tutti i cittadini. Sì, anche perché insomma le cronache parlano, parlato tutta la settimana appunto di necessità di tenere d'occhio i conti anche nell'azienda di Stato, quindi questo mi sembra un appunto molto molto interessante. Nel frattempo è iniziata l'arena. Massimo, ma come fai a fare tutto? Cioè come, sì. Come sono i tempi? Semplicemente non sono riuscito, non ho fatto vacanze. Ah, certo. Per organizzare, perché io credo che è una cosa che non si riesca bene a capire. Comunque lì c'erano 60 artisti, cioè a Sanremo ce ne sono 20 più i ragazzi. Quindi noi praticamente in due grandi serate, una la vedremo questa sera, ma abbiamo messo in piedi una piccola Sanremo, quindi uno sforzo enorme per andare a convincere i cantanti, andare a casa di Zucchero, perché avevamo fatto anche Zucchero, che è andata benissimo, sì. Anche lì. Sì. Cioè non è semplice creare questi eventi, però solo il lavoro. Grandi autori, immagino. Ma Gianmarco Mazzi, che è stato per anni direttore artistico di Sanremo, è l'uomo che ha fatto la differenza su questo progetto. Quindi insieme a lui abbiamo girato l'Italia, abbiamo fatto un tour italiano quest'estate, però alla fine era Mazzotti, Cocciante, Nannini, ecco, c'erano Morandi, Ranieri, veramente... Tutte. È la percezione di aver messo in piedi qualcosa di importante che poi il pubblico la scorsa settimana ha gradito e spero che replichi questa sera. Un tempo si diceva, Massimo, la musica non fa ascolti e quindi si faceva un Sanremo con tanti ingredienti, lasciando quasi la musica in secondo piano perché tutti avevano paura che durante l'esibizione musicale la gente cambiasse canale. È cambiato il pubblico o forse... Si pensava no, una cosa sbagliata? No, ma è molto diverso, perché a Sanremo tu ascolti per la prima volta una canzone. Se pensate che l'avventura, una famosa canzone di Battisti Mogol, venne presentata nel 69, ma arrivò nona, cioè non è stata mai capita subito. No? E tante altre canzoni, la storia di Sanremo lo sa, Vasco è arrivato ultimo, cioè ci sono Zucchero stesso, arrivò ultimo, penultimo. Cioè Sanremo ascolti una canzone e... Qui noi raccontiamo, almeno io nei miei eventi, credo debba portare la grande musica, Ecco che allora c'è un successo doppio, ho un mandato diverso, io devo fare ascolto a Sanremo, devi trovare delle canzoni. Posso chiedere, a noi piace spesso cercare di capire come funzionano un po' i dietro le quinte di vari generi televisivi. Ora, tu obiettivamente sei riuscito a imporre con l'Arena una sorta di informazione nuova in una fase della giornata, della settimana, anche un po' della vita delle persone in cui di solito invece si cerca l'intrattenimento. Qual è il meccanismo, il trucco, la ragione del successo di riuscire a fare informazione in una fase in cui invece si diceva sempre lì bisogna fare intrattenimento? Intanto è stata una mia battaglia personale, perché io comunque nel momento in cui mi si chiese di entrare a far parte di Domenica In, mi ricordo che mi avevano dato, siccome non ci credevano quello che stai dicendo, mi avevano dato solo 24 minuti scarsi. Poi piano piano quei 24 minuti sono cresciuti, oggi siamo a 3 ore. E io credo che le persone abbiano bisogno di un certo tipo di informazione, intanto di un conduttore super partes. Quindi nessuno su di me può dire qualcosa, perché non mi ha messo, a differenza di altri, né la destra né la sinistra, tanto per essere chiari. Quindi c'è una credibilità che spiega forse questo numero enorme, perché tutte le settimane 4 milioni di spettatori ti seguono, cioè è un serale praticamente, e a costo bassissimo, bassissimo. E c'è una voglia di sapere, voglia di capire, e noi abbiamo trovato un modo forse molto diverso di raccontarlo. Massimo, adesso ti arriva un dirimpettaio che è Pippo Baudo. Pippo, com'è? Un altro ottantenne. È la settimana degli ottantenni. È la settimana degli ottantenni. Come ti trovi a così convivere in palinsesto con Pippo Baudo? Che impressione ti fa, visto che Pippo appunto è un inossidabile, faceva la domenica anche quando tu eri ragazzino? Ma sai, intanto Pippo gli ho fregato uno dei tanti record che ha, gliel'ho fregato io, perché mai nessuno ha fatto così tante domeniche In di seguito come ho fatto io. E per questo adesso lui vuole ricominciare, esatto, perché non ci sta a perdere i record. Infatti ho visto che ha ribadito che lui ne ha fatte 13, però non ne ha fatte di seguito, quindi è una cosa un po' diversa. Però al di là di questo, sai, sono due teorie. Se la novità è tornare a Pippo, dicono ma perché? Non è una novità. Poi c'è l'idea mia personale che la qualità delle persone va al di là della carta d'identità. Quindi può essere interessante fare questo tipo di ritorno proprio in virtù del fatto che quest'anno Domenica In fa 40 anni. Certo. Quindi chi meglio di chi l'ha vissuta e chi ha incontrato i grandi come Corrado, tutto il mondo, perché Pippo ha incontrato tutto il mondo. È verissimo. Quindi può essere una scelta. Io ho sempre convissuto bene con lui, credo che tra i professionisti, se c'è correttezza, non ci siano problemi. Sì, sono d'accordo con te. Io sarò molto curiosa poi, peraltro, di scoprire poi cosa inventa. Ah no, ma infatti io mi aspetto di tutto. Massimo, fammi fare un po' anche la giornalista. Devo chiederti come hai preso invece le polemiche di questa settimana dopo Vivamo Gol, perché insomma ci sono state delle prese di posizione contro quello che i tuoi ospiti hanno detto in merito al caso Tenco, parlando dei loro ricordi personali. No, ma c'è stato anche chi ha detto che a me spiace sempre, perché una famiglia, quando ricordi un momento drammatico, è ovvio che ha delle sensazioni diverse rispetto alle nostre. Però proprio perché io pensavo fossero passati così tanti anni e sulla morte di Tenco ci siano ancora tantissimi dubbi, perché la verità non si è mai saputa con certezza. Fatti degli errori clamorosi nelle indagini, ci sono ancora oggi più versioni, tant'è che insomma, anche Gino Paoli è rimasto, ha detto delle cose, no? Ma io credo che a volte uno possa anche ricordare non bene le cose, ma un passaggio era evidente. È chiaro che quando Mogol e gli altri dicono si era in poche a un funerale, c'erano poche persone conosciute a un funerale. Certo, Gino Paoli certo ha detto eravamo in pochi perché nessuno ci credeva, oppure perché il mondo, questo mondo, devo dirti, non è bello come luccica, come sembra, e anche allora forse era così. E poi certo c'era l'autostrada, non c'era l'autostrada, certo c'era l'autostrada, ma io ascoltando due persone non mi posso permettere di contraddire quello che dicono. Ma ribadisco, se Ciao amore ciao era una canzone dedicata agli emigranti e tutto quello che è successo, no? Questo va bene tutto, però non vuol dire che quelle parole in un giornalista come me, dopo anni, potessero innescare un'idea. Certo, certo. Non è detto che l'interpretazione principale che si è sempre data di quella canzone sia quella poi corrispondente a verità. Magari lui aveva un'altra interpretazione, dava quelle parole un altro senso, ma avevo due paroliere, era giusto chiederglielo. Hai ragione, poi ovviamente i loro ricordi personali sono ricordi personali a distanza di tanti anni, non credo che si possano... No, ma io lo capisco, perché probabilmente qualche imprecisione c'è stata, ma proprio anche perché parliamo di persone come Mogol che ha 80 anni, magari qualche cosa se la dimentica o la rivive in un altro modo, ci sta, però alimentare delle polemiche mi sembra sempre... Abbiamo detto anzi che... Tenco era un ragazzo allegro, simpatico, pieno di vita. Mi sembra un po' così, insomma, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma io nelle polemiche ho sempre il rispetto degli altri, delle posizioni, no? Però basta farle esprimere a tutti. Io l'ho detto che Massimo Giletti è uno che con discrezione, è perché siete piemontesi, ragazzi, perché siete piemontesi. Lui, Siamo in due oggi. Sì, ma non con la stessa fede calcistica, è notoria tua. No. E sei molto più felice di me da tempo, diciamo. Perché da bambino ho detto, ma perché devo stare sempre male? Ecco, questo è vero. Una scelta un po' vigliacca. Grazie, auguri, complimenti. Massimo, in bocca al lupo per questa sera. Un abbraccio. Questa sera sarà un altro grande evento. Vi dico solo che vedremo anche Raul Bova in un modo molto particolare. Uno straordinario Cocciante, Gianna Nannini, Nazilli, ancora tanti nomi. Bello. Sul viva divano Mogol. Rai 1, viva Mogol. E chi mi sposta dal divano stasera? Nessuno. Grazie a Massimo, Massimo Giletti. Grazie, a presto. Ciao. E adesso il traffico. Il traffico, a tra poco. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Radio Tube. E torniamo insieme per parlare di un video che in questo momento è il più diffuso in Italia di gran lunga. È proprio un video che è diventato famosissimo ed è davvero bello, bellissimo. L'avrete visto sicuramente anche voi, ascoltiamone un pezzetto. Vai. Ho cominciato ad aiutare la ricerca quando nel mio condominio si è trasferito Mirko. Siete i benvenuti, piacere. L'ho appena comprata. Pure io. Con lui ho imparato a rinunciare a tante cose. Come al sonno, per esempio. Io adesso vado a bussarli. No. Non è educazione. O ad un aereo, spesso. Calma, vai con calma. Ma rinunciare al proprio posto auto... Questo è troppo, Mirko. Questo mi dispiace. Ora, questo è il mio posto. Questo è il mio posto, Mirko. Adesso io metto la macchina qui. Guarda che chiami i vigili. Io chiamo la ricerca contro la SMA e dono un sacco di soldi. Così tu magari un giorno guarisci e te fermi. Un giorno, grazie alla ricerca, Mirko potrà ricercare il suo posto auto come tutti noi. Regaliamoli questo sogno. Allora, la vera star di questo video non è Checco Zalone, anche se insomma ci ha messo del suo. La vera star di questo video è Mirko. E noi Mirko ce l'abbiamo al telefono. Ciao Mirko! Ciao! Senti Mirko, come ti sei trovato con questa popolarità improvvisa? Bene? Bene, non me l'aspettavo e sono contento che così magari vedendo quello spot inviano i messaggi anche le altre persone. Esatto, diciamo subito il numero. Per inviare i messaggi all'SMS il numero è 45599. Bravi, Mirko. Bravi. E tra l'altro l'1 e il 2 ottobre in tutte le piazze d'Italia si può incontrare l'associazione delle famiglie SMA. Mirko, tra l'altro noi ci occupiamo spesso di youtuber, tu sei anche uno youtuber, quindi non eri proprio la prima. Mi diverto a fare i video. Non eri dunque alla prima esperienza? No, però con Checco Zalone è stato bello. Ma com'è nata l'idea di questo spot e della tua partecipazione? Beh, cercavano un bambino per fare questo video e allora ho fatto un provino, l'hanno inviato e hanno scelto me. Hai visto, ho dovuto fare un provino? Cioè, hai girato una cosa a casa tua, se non ho capito male, no? Sì, il provino a casa mia. Mirko, tu quanti anni hai? 13. E vai regolarmente a scuola? Che classe fai? Terza media. E quindi sai già cosa fare al liceo? Io perché sai cosa c'è? Quando fanno la terza media chiedo subito cosa faranno le superiori dopo. Tu hai già pensato? Robotica. robotica, capito? Cioè, spiega, che cosa ti piace di questa, di questo, di questa materia? È tutto un po' i programmi, un po' col computer e così. Cioè, sei un appassionato di tecnologia? Grazie Mirko, passaci la tua mamma che vogliamo conoscere anche lei. Ciao. Grazie. Mirko, ciao a tutti. Ma che buonasera. Bravo questo Mirko che diventerà un esperto di robotica. Visto che conosciamo le famiglie, vogliamo conoscere anche la mamma di Mirko. Mamma di Mirko che si chiama? Stella. Stella, che com'è stata questa avventura? È importante, è bella, ha fatto sorridere, divertire e secondo me ha fatto anche mettere molti mano al portafoglio, che è una cosa non da poco. Sì, una cosa inaspettata, più che altro, anche penso per tutti, come coinvolgimento insomma anche delle persone. Da che cosa è nata, diciamo, allora questo spot che molti appunto hanno visto ha una forte caratura di originalità, perché è stato scritto e detto che finalmente c'era uno spot di questo tipo veramente originale. Com'è nata questa idea di fare uno spot diverso dai soliti spot su questi argomenti? Ma è nata dall'idea di una ragazza che anche lei ha la SMA, che si chiama Anita Pallara, che è una concittadina proprio di Checcordalone, che si sono conosciuti, mi pare lei andava, non so se andava al cinema o da qualche parte, mi sa che l'ha conosciuta, adesso non ricordo esattamente, e lui proprio da tempo insomma che voleva dedicare qualcosa alla SMA e a modo suo insomma lo ha fatto. A modo suo, ma in modo molto originale. Tra l'altro Mirko ha mostrato un'espressione del facciale molto molto quasi da attore professionista. Si vede che con YouTube si fa allenamento. Io devo imparare ancora molto. Sì, perché deve diventare YouTuber anche Daniele. Che meraviglia. Possiamo ricordare quello che succede oggi e domani? La cosa che bisogna assolutamente fare è mettere mano al telefonino e con un SMS al numero 45599 donare alla ricerca. È molto importante perché la ricerca su questa malattia sta facendo grandi passi avanti anche con la scoperta di nuovi farmaci e quindi è il momento giusto per donare. Se poi si vuole venire in contatto con l'associazione delle famiglie SMA l'1 e il 2 ottobre in tutte le piazze d'Italia, chissà, magari in qualche piazza ci sarà anche Checco. Infatti magari ci sarà anche lui. Grazie mille Stella per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie, siete saluti bravissimi. A Mirko e grandi complimenti. Grazie a voi. Ciao a tutti, ciao. Benvenuti a Mirko e Linda Show. Sono le serie TV! La prima serie TV è Don Matteo. E questo era uno degli appuntamenti della webserie di Mirko. Beh, che ragazzino fondamentale. Sì, secondo me devi imparare anche da lui. Allora, è stata una settimana, appunto, dicevamo, la settimana di Mirko e di Checco, che però ne ha fatta anche un'altra. Perché è stata anche la settimana degli ottantenni, anzi di un ottantenne. L'abbiamo citato parlando con Genetti, vedi che tutto si tiene in questa settimana. Però non abbiamo mai detto chi è. Pippo che ha compiuto 80 anni e adesso ritorna domenica in. Silvio ha compiuto gli 29 settembre, seduto in quel caffè. Bersani. Quindi auguri a Bersani, auguri a Berlusconi, così da per condicio rispettato. Esatto. Però gli auguri più belli, divertenti. Anche gliele ha fatti questa proprio volta Checco Zalone. Eccoli qua. 80 candeline! Non so se lei mi conosce, caro Presidente, io sono il 30% del suo fatturato. Niente, che dirle, volevo farle i miei personali auguri nella convinzione che quando un giorno io avrò 80 anni mi telefonerà lì personalmente per farmi gli auguri. Perché, cari italiani, questo me li farà gli auguri quando avrò 80 anni, vedrete che sarà così. Su col morale! Allora, non conosco i bilanci Mediaset, quindi non so la percentuale se è esatta o no, però diciamo, sulla seconda cosa che ha detto, secondo me... No, che è sicuro, manderà anche la videocassetta degli auguri. Sì. Bravo Checco, c'è sempre un'idea diversa, laterale. Anni che dico che è geniale, poi c'è ancora qualcuno che storce diciamo il naso che, e non lo so, no, non so come faccia. Diciamo che se ne sono accorti altri milioni di italiani, non è che proprio... No, gli italiani sì, ma i critici mica tutti. Ma i critici lo sai, che poi arrivano, prima o poi arrivano. arrivano. Sì, prima purtroppo, o poi, prima o poi. Arrivano, a volte molto poi. Va bene. Sai invece chi sta arrivando? Chi è arrivato? Saremo a posto per le prossime arriva, puntate. No, per ora sulla 7. Ah, ok. Con il suo crozza nel Paese delle Meraviglie. E quindi dal prossimo sabato preparati. Torna perché Fuxas. Ogni RadioTube ti... ma a parte che c'era anche di martedì intanto. Certo, però devo però dire che ti troverai chi un crozza tutte le settimane. Iniziamo la stagione di Crozza Tube, esatto. con questo promo che hanno fatto, che secondo me è perfetto, perché Crozza è Paolo Sorrentino. Sappiamo che sta lavorando ad un nuovo progetto, Paolo Sorrentino. Sono partito dalla noia. Della noia. E ho detto, mo con la noia ci faccio qualcosa di buono. Ah, bello. Tipo? Un'inquadratura di una schiena storta. Una schiena? Stacco una mucca, stacco tre preti che affogano, stacco cosa? John Malkovich nudo dentro un frigobar. Vabbè, sono immagini bellissime, ma... E poi nella penombra una suora nana che fuma. Una suora nana, ma cosa significa? Cioè, cos'è? Rappresenta la borghesia in declino. La borghesia in declino? Ah. La minaccia islamica. Quale delle due? La lotta agli UGM. E non so, l'ha detto, io non so cosa... No, non lo so neanch'io. Ah, no, ma c'è una trama? No. C'è una trama? No. Secondo me è geniale questa. La borghesia. C'è una trama? No, borghesia in declino. La borghesia suora che fuma? Sì. John Malkovich chiuso dentro un frigo bar nudo. No, vabbè, è meglio di Paolo Sorrentino. Beh, sì, povero Paolo. Cioè, Sorrentino. Più Paolo Sorrentino di Paolo Sorrentino. Ma a Crozza gli riesce questa cosa di essere, vabbè, più... Prepariamoci, perché io tutte le settimane dirò Daniele, poi ci sarebbe questa cosa di Crozza. Ancora Crozza? No, sì, ma alla fine mi farà ridere. Alla fine, dopo tutte queste infusioni, dico, ma poi scherzo, perché spesso fa ridere. Comunque, vabbè, basta. Vabbè, abbiamo riso, ci abbiamo siamo riso, commossi, abbiamo avuto letto, degli ospiti fantastici. E adesso, prima di un non gin tonic... Non gin tonic, perché abbiamo appurato che il gin tonic non è per noi. Gol. Ci salutiamo. Sì. Ringraziamo Andrea Roccabella in regia e Cristian Goldoni, perché senza di lui non va in onda nulla. Al prossimo sabato, Daniele. Super Cristian, al prossimo, ciao.